vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 8 di Ratto di Campagna, Topo di Città, Topolino di Città, che topo è? I ratti stanno solo nelle fogne oppure nei fossi vicino agli allevamenti di maiali. Questo programma di Radio Big World cerca di insegnare a tutti i popolani, ignorantori, zoccoloni come me che vivono in provincia a comportarsi in maniera adeguata quando si presentano in città, perché tanto o un documento o un matrimonio o andare a trovare un amico, prima o poi in città tocca passarci, e differente è arrivare lì e vedere che si ha ancora le zolle sotto le scarpe oppure presentarsi con delle belle scarpe di cavalli tutte zebrate. Per arrivare a imparare qualcosa di più cittadino, di più urbano, naturalmente la mia sola presenza sarebbe inutile, perché io di urbano e di urbanistico non c'ho praticamente niente, e pertanto ci serve una guida che, mentre noi ancora misuravamo la nostra latitudine col sestante e le tavole logaritmiche, lei era già andata sulla luna. Laura! Ciao Giorgio, ciao a tutti. Laura, oggi l'argomento che sarebbe gradito trattare, e è un argomento che ci coinvolge tutti e in grande misura, e che piace a tutti, e non è aiutare gli orfanelli, andare a fare il volontario in Africa, buttarsi con il paracadute dal pan di zucchero di Rio de Janeiro, ma è andare al ristorante, mangiare fuori. Un po' più alla fuori. Portata di tutti, dai. Alla portata di tutti, e non solo. Pensa che da noi, ti ricordi tempo fa, c'era un politico, insomma, che gli piaceva mettere mano alle costituzioni e sosteneva che esistesse una costituzione legale, cioè quella di carta, e una costituzione reale. Sebbene questo fosse una vaccata da un punto di vista giuridico, però qui da noi effettivamente aveva colto nel segno, perché il primo articolo della costituzione reale qui in provincia è: l'Italia è una repubblica fondata sul diritto di andare almeno una volta alla settimana a mangiare fuori al ristorante. È così anche a Firenze? Addirittura? Così tanto? Anche qua. Sì, dai, perché andare a mangiare fuori almeno una volta a settimana ti fa dire, vabbè, sono uscito, no? Anche noi che abbiamo famiglia, che siamo un pochino più, non più ragazzini, che magari non usciamo più come una volta, come gli adolescenti, però anche solo il fatto di andare in pizzeria una volta a settimana ci fa dire, ah, che bello, abbiamo messo il naso fuori. Piace andare a cena fuori, decisamente. Poi, insomma, a Firenze non mancano ristoranti, per fortuna. Non mancano ristoranti di ogni tipo, di ogni nazionalità, e abbiamo l'imbarazzo della scelta. Quindi il fiorentino ama andare a mangiare fuori, non è che, ne so, l'avaro dice no, dove vai, ti rubano. Si usa andare. No, secondo me ce lo concediamo tutti, anche chi ha più problemi economici di altri non rinuncia ad andare a cena fuori. E nello scegliere il luogo dove andare a cena, ovviamente ci saranno delle mode, ci saranno ristoranti, luoghi, bettole, trattorie che sono alla page, mentre altre che sono decadute, ma più in generale, sappiamo ormai che il comune di Firenze e i suoi confini sono perentori per il fiorentino, pertanto è fico andare a mangiare solo nei posti di città, magari proprio esattamente in centro, dentro Santa Maria del Fiore, oppure fa fico anche dire, che ne so, sono andato a Dicomano, c'era una trattoria molto bella, oppure a Prato un amico mio c'ha un posto, insomma è più fico andare ma a mangiare certo. Fuori. Secondo me bisogna differenziare in base alla compagnia, perché una coppia che va a mangiare fuori Firenze, secondo me ci sta. Allora lui che vuole stupire la sua lei portandola sulle colline, magari con tanto di panorama. Poi vabbè, ci sono anche dei posti famosissimi fuori Firenze che sono dei must, allora insomma, ma mangiare il tortello mugellano si va fuori Firenze ovviamente. Ora non sto a fare pubblicità a certi ristoranti mugellani, però insomma... Sì, dai, noi andiamo anche fuori. Penso che invece il gruppo di amici o la tavolata si fa più volentieri in città, perché poi siamo anche vicini alla movida. Allora differenzierei in base appunto al fatto che se si tratta di una coppietta, magari al primo appuntamento, insomma molto romantico, no? La collina fiorentina. E invece gli amici magari anche un po' beceri, che vogliono fare più confusione a tavola e allora rimangono vicino casa. Poi questi nuovi, insomma, Firenze pullula di nuovi ristoranti. Guarda, negli ultimi anni c'è stato un proliferare di nuove attività di cinesi, giapponesi, indiani, greci, non solo, ma anche di particolari modi di gustare il pesce creati da ristoratori italianissimi. C'è più attenzione alla tracciabilità del prodotto, c'è più attenzione, insomma... Con questa grande scelta che avete a disposizione in città, ma anche con il jet set e la movida e con il sapersi presentare nel modo giusto, il fiorentino va al, di preferenza, va al ristorante tradizionale, quindi la bistecca, la tagliata, la pasta, oppure si butta in queste nuove tendenze come il fusion, il vegan, il bio o addirittura il ristorante etnico? Ci si butta nelle nuove tendenze, però secondo me poi è più affezionato alla cucina nostrana. Allora la nuova tendenza può essere anche una vera e propria delusione. Ora non voglio fare il nome di un ristorante che ho provato poco tempo fa, ma è stata veramente una delusione. Allora poi mi sono detta dentro di me, la prossima volta bistecca se va più sul sicuro. Anche se invece in molti ristoranti di cucina toscana si mangiano cose che insomma noi mangiamo anche a casa, noi come voi, perché insomma alla fine noi abbiamo una tradizione culinaria casalinga invidiabile, ottima. Quindi andare a mangiare qualcosa che poi la nonna in casa ti fa molto meglio, insomma, sì, c'è la bellezza dell'uscire, dell'essere servito, però insomma, come qualità del cibo la cucina toscana si mangia bene a casa nostra, no? Sia noi che voi, concordi? Senz'altro. Però ecco, se c'è magari un amico che ci viene a trovare da fuori, allora sì, è d'obbligo portarlo... il marchigiano che ci viene a trovare in Toscano, portiamo a mangiare la bistecca. Il milanese proprio vuole, esige di essere portato a mangiare la bistecca. E paga lui! Ma ora questo è da vedere. Ah sì, eh? Il crostino nero, la ribollita, la minestra di pane. Loro, cioè, quando abbiamo degli amici che ci vengono a trovare da fuori Toscana, non le possiamo portare al giapponese, dai. Convieni con me su questo. Quindi ecco, dipende anche qui dalla compagnia con la quale ci si trova ad affrontare la serata. E a proposito di ristoranti etnici, qui da noi c'è più o meno il sudicio, o quello che chiamiamo il sudicio, cioè generalmente un arabo nordafricano che ha un furgone dove fa... Che ha superato anche il sudicio del paninaro italiano? Beh, senz'altro. Poi, lo chiamano il sudicio, poi magari sarà pulitissimo, per carità. Però, insomma, così on the road, di notte, con un bello odore d'unto e di grasso in giro, insomma, non dà l'idea della sala operatoria. E dall'altra parte... Meglio così, dai. Mangeresti se un panino su un lettino da di sala operatoria? In effetti, quelli dell'ospedale fanno ancora più schifo. È vero, decisamente. No, perché volevo dire che anche il sudicio c'ha un suo perché, se no davvero poi passa da cittadina snob. Io insomma sono favorevole al panino del sudicio. Va. Oppure va il cinese che fa finta di essere giapponese, dove è all you can eat. Ecco, in realtà no, all you can eat sono le prime porte. Lungi dai cinesi che fingono di essere giapponesi, perché l'all you can eat, ma io direi... all you can eat, but chissà poi dopo se ti senti male, insomma, però vabbè. E poi alla fine all you can eat, le prime portate che uno ordina, perché poi fanno apposta a portarle lentamente, per cui poi uno si stanca, gli passa la fame e ha mangiato meno che se avesse preso alla carta. Come ma va? Io mi stanco subito quando sento l'odore, quando entro in questi posti, comunque, ripeto, non voglio fare la snob, vai avanti. Come vanno i ristoranti etnici a Firenze? Sono alla moda? E qual è quello più di moda? Il libanese, il greco, il brasiliano? Ma vanno tutti, c'è lo spagnolo, che poi c'è anche la serata che prosegue, in buona tradizione spagnola, bevi la sangria a tavola e ti trattieni, va il greco perché comunque si spende poco e ti riempi tanto, va il giapponese da chi schifa il cinese e preferisce il cibo di qualità però magari va a spendere di più, va ancora il cinese perché insomma con 2 lire ti riempi la pancia. Vanno un po' tutti, io non ce la vedo tutta sta crisi nella ristorazione. E anzi, dico che noi a Firenze, che i ristoratori a Firenze sono fortunati, sono più fortunati di quelli di provincia, perché in provincia, nel piccolo paese il ristoratore non può sgarrare. Io vengo, ti porto un esempio, se io vado qui a Firenze e mangio male, non ci torno, però quel ristorante magari c'ha sempre il suo giro, perché la gente è tanta, va e viene. Io posso dirlo ai miei amici, non andate lì, però insomma finisce qui la cosa. E invece in paese io non posso fare nomi, perché ovviamente fare una pubblicità troppo negativa a un posto che conosco, di una persona che vive in un paese che ha aperto il suo ristorante, ha iniziato a far mangiare male la gente e i locali, di locali non ci va più nessuno perché si è sparsa la voce. Un po' mi dispiace per questa persona, però si è fatta una... Ha sbagliato quelle 2 o 3 volte che sono state sufficienti per crearsi una fama negativa e addio. Senz'altro in provincia si chiude quando la fama è negativa, così come si sta aperti e pieno di gente nei posti che vengono detti fichi, anche se si mangia malissimo in piatti di carta. Esatto. Infatti proprio penso i ristoratori di provincia con una buona fama c'hanno sempre la gente, e anche se non è meritata questa fama, insomma, fa il caso loro e viva, viva tutta la gente che si affolla lì e piace loro. Già che hai nominato il ristorante spagnolo, qui da noi si è diffusa la pratica spagnolesca, per carità, di andare a cena molto tardi. Ora, in Spagna hanno una ragione. La Spagna all'ora di Roma, per una decisione politica fatta da Franco, perché in realtà per il sole ha lo stesso orario del Portogallo, quindi è chiaro, vanno a mangiare alle 10, ma perché per il sole sono le 9. Sì, invece... poi si alzano anche alle 10, quindi insomma fanno tutto più tardi. Chiaro. Invece noi, per non passare da ignorantoni, da pecoroni, da gente che vive ancora nel Medioevo, a mangiare prima l'aperitivo, poi il contraperitivo, poi quello, poi quell'altro, chi si presenta prima delle 9 è grullo. A Firenze, a che ora si va al ristorante? Ma io dico, l'orario giusto è fissare alle 8:30 e presentarsi verso 8:45, avere quel quarto d'ora accademico. Che non capiti mai di essere i primi a sedersi, perché guarda, sedersi in un tavolo e vedere tutti gli altri tavoli vuoti, essere gli unici al ristorante è veramente imbarazzante, sia da noi che da voi, non trovi? Abbastanza. Poi dipende, se uno va a fare prima l'aperitivo è ovvio che l'orario della cena si allontana, però... anche questo aperitivo poi molto spesso sostituisce la cena, quindi alla fine secondo me si potrebbe andare tutti a mangiare alle 8:30 e fare le cose regolari, no? O se no, se va a fare l'aperitivo ti fermi lì e fa serata lì. Parlo un po' da vecchietta forse, perché gli adolescenti amano magari passare da un posto all'altro, però io dico una serata, una bella serata è anche una serata dove ti siedi, stai tranquillo, ci passi insomma quelle 2 o 3 ore in buona compagnia e ti rilassi davanti al buon cibo, no? Gli adolescenti di oggi, quelli con il polpaccio nudo, in buona sostanza, si sballano molto più di noi quando eravamo adolescenti, e sì che eravamo sballati. E a Firenze è come nei film americani, quei film a New York dove il protagonista, per portare fuori, non so, degli amici o più in particolare la ragazza con cui farà obbligatoriamente sesso, se no non sarebbe un film americano, generalmente tira fuori la questione del ristorante. Sai, ho una prenotazione da Gino alle 3 per due persone e è una cosa rarissima. Anche a Firenze tocca prenotare per i ristoranti, oppure alla vecchia ci si presenta in trattoria e ci si mette a sedere? Allora, se ti presenti in trattoria sperando di trovare posto, devi essere fortunato, perché nel weekend non succede così, è sempre tutto pieno. Quindi meglio prenotare. Poi vabbè, ma se mi dici al primo appuntamento, ma scusa Giorgio, se rischieresti di non trovare posto nel ristorante dove vuoi andare se sei al primo appuntamento? Ma no, cioè il primo appuntamento va curato in ogni minimo dettaglio. Secondo me l'uomo giusto prenota il ristorante almeno 10 giorni prima. Scusa tanto. Allora non è una trovata cinematografica. Ma no, dai, su, ti devo anche insegnare come corteggiare le donne. Dipende anche sempre dalla compagnia, si torna lì. Allora un gruppo di amici così allo sbando possono anche girare 2 o 3 ristoranti in cerca di quello che c'è a posto, poi a prescindere da quello che c'è nel piatto. Ma insomma, un uomo che porta fuori una donna al primo appuntamento deve organizzare tutto nei minimi dettagli. D'accordo, quindi questo... Segna. Va preso nota. E già che, insomma, qui da noi il borsello è una cosa pesante e pesa nelle tasche, anzi si tende a gonfiarlo pieno di fogli per far vedere che è pieno straboccante, quanto è la spesa accettabile per un fiorentino di città quando va a mangiare fuori? Io direi così, tanto per tirare 2 cifre, 20 euro in pizzeria, 35 al ristorante, un ristorante medio, e circa 50 in un ristorante un po' più elevato. E poi voglio invece spezzare una lancia a favore dei ristoranti di provincia, perché spesso il ristorante fiorentino, solo perché a Firenze ti costa di più, invece magari come qualità del cibo si mangia meglio fuori Firenze e si spende meno. Però sai cosa fa anche il fiorentino che voi non potete fare? Sì. Per risparmiare? Prendi il Groupon, Groupalia, che dir si voglia, le offerte su internet dove ti offrono pasto completo a 10 euro, oppure pizza e birra a 5 euro. Lo sapevi? Beh, da noi Groupon c'è chi lo usa, ci sono ristoranti o altri posti che insomma promuovono la loro attività attraverso questo mezzo, però diciamo che chi ne fa uso è visto un po' come uno sciroccato, è visto come uno tirchio avaro, ecco. Non è socialmente sì, come accettabile dire, ma... invece no, da noi va abbastanza di moda. Però insomma, c'è qualcuno che ti può dire: ma che fai, vai a cena col Groupon? No, sei proprio preso da... non lo so, sei proprio messo male. E invece guarda, non... e poi dopo il ristoratore ti offre ovviamente un altro sconto per la volta successiva. Però insomma, ti dico la verità, io sono andata a cena col Groupon, ma molto spesso mi sono trovata male. A volte tocca spendere per mangiare bene. Si parla tanto oggi di street food, si parla tanto di slow food, ma nel senso di mentre si mangia, gustarsi anche l'intorno che si ha, e chiaramente a Firenze lo scenario è particolarmente emozionante o esaltante, non so se uno c'ha la bocca piena o con tutti i bricioli, però insomma effettivamente magari mangiare con qualcosa da passeggio mentre si è in Piazza del Duomo o altrove in centro magari è bellissimo. E tocchiamo qui il punto di mangiare un panino o mangiare velocemente per strada. Firenze è salita agli onori della cronaca nazionale quando il sindaco ha deciso che avrebbe bagnato gli scalini dove di solito si fermavano a bivaccare più o meno turisti, studenti, ma infatti, americani. Ma è un problemone, fra tutti quelli che ci sono. Ma il sindaco, che è un violinista, ricordiamolo, e che è un grandissimo musicista, ha anche a cuore probabilmente l'armonia della città e del vivere cittadino. Fatto sta, quelli che mangiano in quegli scalini e effettivamente di sudicio ne lasciano pure parecchio, generalmente sono stranieri, sono studenti, sono americani, sono turisti. E sì, mangiano il panino pensando di risparmiare, però poi gli danno una scoppola uguale perché tanto sono stranieri. Il fiorentino ci si augura che nei posti a chiappa turisti, i posti a chiappa turisti si vedono lontano un miglio, cioè noi fiorentini siamo abituati e non ci facciamo fregare, dai. Anche solo per come viene scritto il menù, come, non lo so, il posto a chiappa turista il fiorentino non lo frega decisamente, su questo ci siamo allenati col tempo. E quindi dove va il fiorentino a non farsi fregare, ma a mangiare? Fuori Firenze. No, vabbè, ci sono anche a Firenze dei posti, insomma, anche una schiacciata, una cosa semplice, noi sappiamo dove andarla a mangiare. Il gelato buono, sì, può costare, ma insomma, non 10 euro, tre palline, ecco, quindi... Dai, lo sappiamo dove andare. Ora non mi fa far nomi perché non voglio fare pubblicità a locali, alle attività fiorentine, ma poi si vede, su, basta essere un po' vispi. Generalmente bisogna evitare i luoghi proprio vicinissimo al Duomo, vicinissimo al Ponte Vecchio, vicinissimo al Palazzo Vecchio, perché insomma questi sono per turisti. Allora, se il giapponese gliele dà 10 euro per un gelato, che ti devo dire, fa bene forse il gelataio a offrirglielo? Non lo so, qui si apre il dibattito. Vabbè, siamo in regime di libero mercato e se i prezzi sono onestamente e legalmente esposti, beh, ognuno si prende i suoi rischi. Insomma, è una vecchia polemica, in particolare, che più o meno ripetutamente sulla stampa coinvolge Venezia. Sì, esatto. Comunque anche lo straniero, così come quando noi andiamo all'estero, no? Se ci vogliamo un po' tutelare, andiamo in queste catene internazionali e lì almeno sappiamo all'incirca qual è il prezzo, sappiamo all'incirca che cosa ci danno da mangiare. Insomma, se lo straniero non vuole rischiare, anche a Firenze li trova queste catene internazionali che conosce bene. Insomma, cari popolani, cari zoccolanti, abbiamo imparato oggi che il ristorante, se si va a casa nostra, cioè in provincia, perché a Firenze ci fregano. Ci spennano. Pertanto ringraziamo Laura, la ringraziamo anche per averci aiutato a capire come fare bella figura ragazza a Firenze. Voglio concludere citando il prodotto fiorentino per eccellenza, il Lampredotto. Venite a Firenze e mangiatevi un buon panino con Lampredotto e con 3,50 euro, siete felici. E allora, con questa ultima dritta, ringraziamo Laura, ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguiti fin qui, mi auguro con l'acquolina in bocca e con la falce in mano, perché ora c'è da andare a tagliare l'erba, e vi aspettiamo alla prossima fiorentinata. Olè!